c'è stato un momento in cui le redini che l'uomo ha dapprima imposto al cavallo si chiamavano brettine, poi le ha imposte a se stesso e per analogia le ha chiamate bretelle. Da brettine sono diventate bretelle. Nel vestiario maschile ottocentesco abbondano e svolgono la funzione di sostenere i calzoni. Dice la Levi Pisiski, in quel bel volume dedicato al costume e alla moda nella società italiana, che in passato queste bretelle erano strisce di cuoio, mentre poi sono state prodotte in stoffa elastica ottenuta intrecciando ai filati usuali fili di gomma. Dietro la schiena assumevano la forma di una X o di una Y e si allacciavano con asole elastiche a bottoni cuciti sui calzoni oppure si fissavano con dei morsetti. Dopo la metà di questo secolo le bretelle cadono in disuso e oggi o le porta ancora qualche anzianissimo oppure di quelli che non rinunciano alle giarrettiere per tenersi sulle calze o costituiscono il vezzo antiquario di qualche snob. Mio nonno le ha portate fino a che è stato in piedi. Lo ricordo con il toscano in bocca e con il panciotto un po' corto da sotto il quale fuoriusciva l'attaccatura delle bretelle. Quando è stato molto vecchio e i movimenti gli costavano fatiche improbe, mi chiedeva di sistemargliele sulla schiena in modo che non si imbrigliassero. E all'aperto d'estate se doveva assumere una posa virile che ne rammentasse l'antica gagliardia, portava il tronco eretto bene all'indietro e infilava i pollici nelle bretelle poco sopra l'attaccatura. Rappresentava così una parte considerevole del quadro ideologico maschile della sua epoca e delle tradizioni alle quali era stato educato. Qualcosa del genere forse riscontrabile nel John Wayne di Ombre Rosse o nell'Ivan Cliff delle rivisitazioni pre o para sessantottesche dei film di Sergio Leone. Senza le polverose camicie di un tempo, è possibile riscontrare oggi il gesto dei due pollici nell'elastico non più di un paio di bretelle ma di un reggiseno. E al posto di mio nonno e dei tanti che ne avevano tracciato l'iconologia c'è una bionda munitissima con un'espressione di sfida che dice: non so cucinare e allora? Non rivendica un granché e non esige atti di contrizione maschili per come sono andate fino ad ora le cose al mondo. Questa bionda propone uno scambio. Fettuccine fatte in casa, ragù, arista al forno con patate al rosmarino, macedonia e torta di mele in cambio di sesso. Un sesso moltiplicato all'ennesima potenza grazie al reggiseno Wonderbra, come diavolo si chiama. Se avesse voluto rivendicare davvero qualcosa o avesse voluto esigere scuse per quanto subito, la bionda procace avrebbe dovuto lasciare il suo posto a tutt'altra persona. Visto che quel gesto dei pollici infilati nelle bretelle doveva essere familiare, per esempio, il posto della bionda avrebbe dovuto essere preso da mia nonna.